Budue iso niki demeniriko hangwe nyoto-nyoto tuene wong liya. Welas hangsun apoti gawe solali dung bunga sing rusak pager sari. Mempane ati iki sun kutun duweni duweni riko hang sati ucane ati coro paran biaye weso lakoni masyo sun timaro ati. Jane ati coro